Λοιπόν, η Βουλή στην Προεδρική Δημοκρατία της Μακεδονίας ενέκρινε τις αλλαγές του συντάγματος με την απαραίτητη συνταγματική. Il Parlamento dell'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia ha approvato le riforme costituzionali con la necessaria maggioranza qualificata dei due terzi più uno, ovvero 80 voti più uno, 81. Quindi il Paese ha adempiuto ai suoi obblighi per quel che riguarda l'accordo di Prespa. Ora la palla è passata alla Grecia. La Grecia ha portato l'accordo in Parlamento lunedì. L'accordo sarà in discussione nella Commissione Affari Esteri del Parlamento e da giovedì fino a venerdì ci sarà la discussione in sede plenaria ed attendiamo anche il voto. Quando verrà votato anche dal Parlamento greco, il Premier ha posto come soglia 151 voti, ovvero la maggioranza assoluta, la Grecia per dare seguito ai suoi obblighi dovrà in un secondo momento, ma non troppo tardi, al massimo il prossimo mese o quello dopo ancora, votare il protocollo di accesso della Macedonia, con il nome di Macedonia del Nord, nella NATO. Quando avverrà anche questo, saranno stati eseguiti anche gli obblighi della Grecia nell'accordo di Prespa e dopo i due paesi potranno dichiarare all'ONU che hanno compiuto i propri doveri. Questo avverrà con una missiva del signor Matthew Nimetz, del mediatore al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, poiché rammento che la discordia tra Grecia e Macedonia ex jugoslava riguarda il nome ed esisteva una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che stabiliva come mediatore il signor Nimetz per facilitare la risoluzione del problema. Questa è quella che possiamo definire la parte burocratica del problema, quella politica che in Grecia in questo momento è in corso una battaglia politica la quale non è semplicemente riconducibile a una lotta fra destra e sinistra. L'accordo di Prespa superato i partiti e vediamo che i parlamentari dell'uno come dell'altro schieramento accade che siano di volta in volta chi a favore e chi contrario all'accordo. Ed in effetti vediamo anche dall'Italia come il governo si sia venuto a trovare in seria difficoltà su questo argomento. Così ti volevo chiedere, non è forse un momento sbagliato per risolvere una questione del genere? Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει βασικότερα το πρόβλημα ότι η δεξιά. Il governo affronta ancora più alla base il problema che la destra, lo schieramento conservatore. Vedendo la questione in un modo molto di parte, ha diviso sostanzialmente il popolo ellenico e ha provato, con una buona dose di populismo e di molti media populisti, a creare un clima dove la sinistra svende il paese, svende la Macedonia e provoca una pressione emotiva tra le folle del nord della Grecia, le quali credo probabilmente non avranno neanche letto l'accordo. Questo sicuramente è un problema, esiste un disagio popolare, specie nella Grecia settentrionale. Tuttavia credo che le leadership debbano esistere in base a quanto fanno ciò che è giusto e non in base a quanto ciò che fanno e dicono suoni bene alle orecchie di qualcuno. Ακούγεται ευχάριστο στα αυτιά κάποιου. Ed è vero che dietro le manifestazioni si nasconde Alba Dorata? Δεν είναι θέμα. Non è questione di vero o falso, penso che tutti, io personalmente c'ero dal momento che lavoro vicino, sono passato alla manifestazione per vedere com'era, ma si è visto anche dalla televisione, l'abbiamo visto anche dai video, c'erano diversi sostenitori organizzati di Alba Dorata, peraltro anche membri noti di Alba Dorata come parlamentari, come Lagos, i quali erano presenti nel luogo esatto degli scontri con la MAT, cioè la polizia greca, hanno effettivamente provato a entrare nello spazio del Parlamento, hanno effettivamente dato battaglia con la polizia all'ingresso del Parlamento e allora le forze dell'ordine hanno usato i lacrimogeni per farli indietreggiare e non farli entrare. Non capisco dunque se esiste qualche argomento, cioè dovevamo permettere che entrassero all'interno del Parlamento? Είναι αυταπόδεικτο, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε ότι ήταν ακροδεξιά στοιχεία χθες